Mamma drone, che è? Mamma drone, dov'è? Mamma drone, che fa? Mamma drone, che dice? Ogni giovedì dalle 12 alle 13. Mamma drone. Musica, parole, racconti, favole. Tutti e tutte, questa era Onda Rossa, la terza puntata di Mamma Drone. E come avete capito dalla canzone, l'argomento di oggi sarà il lavoro e la precarietà. Mamma drone mancante. fare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. La salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore, vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io... Tengo una voglia e fa niente. Come solo d'indagato, metterà su da pensate e si incontra va via. Chi ha inventato fatica, io ti giuro la cita, perché tengo una voglia e fa niente. Si ha fatica era buona, ma consigliavo dottore. Si ha fatica era buona, non pregavano i preti. Benedizione alla fatica e a chi la vuole. Tengo una voglia e fa... Correva l'anno 1976 e si scriveva: l'inconscio modella il corpo e condiziona il nostro agire, d'accordo. Liberare il nostro corpo e ancorarsi alla materia, d'accordo. Ma è materiale anche l'atto della vendita del nostro corpo che ogni giorno, operaia, puttana o casalinga, dobbiamo fare per sopravvivere. Liberare il nostro corpo deve significare liberarlo dalla schiavitù del lavoro, gigantesca barriera che incontriamo sulla nostra strada, che ci limita nel definire i tempi, i mezzi e i luoghi della nostra liberazione. La psicologia femminile della rassegnazione e dell'autocommiserazione è lo sbocco più semplice per le donne abituate da millenni a vivere come naturale la loro condizione subalterna. Vogliamo individuare, oltre che problemi generali, anche forme di lotta nostre. Vogliamo fare autocoscienza e contemporaneamente riapprovarci di tutto ciò di cui siamo state espropriate: spazi, luoghi, corpo, emozioni, oggetti. Vogliamo realizzare subito i nostri bisogni e trasformare i bisogni in soddisfazioni. Vogliamo tutto e vogliamo creare le condizioni per averlo, perché siamo anche coscienti del fatto che c'è un capitale con tutti i suoi strumenti, Stato e istituzioni, che ce lo impediscono, nella misura in cui vogliono obbligarci in ruoli prefissati ad una missione altruistica, che è solo sfruttamento, all'ideologia del dovere, del sacrificio e della rassegnazione. Contro tutto questo vogliamo essere capaci di tanta violenza da distruggere tutto ciò che ci opprime per realizzare la nuova storia della nostra felicità e del nostro godimento. Questo era Rosso nel 1976. Lady Madonna con i bambini ai tuoi piedi aspettando come sbancare il lunario. Allora, Mamma Tron su Radio Onda Rossa. Iniziamo la puntata sul lavoro parlando di un concetto entrato sempre con più forza nel dibattito sul lavoro di questi anni, per spiegare soprattutto il livello di precarietà generalizzata che condiziona le nostre vite. Il concetto di femminilizzazione del lavoro, appunto, è entrato sempre più con più forza nel dibattito per spiegare le trasformazioni del mercato del lavoro collegate ai nuovi percorsi dell'economia globale. Nel liberismo i processi di valorizzazione del capitale si estendono a livello globale, sfruttando i differenziali di sviluppo a proprio vantaggio. Nel capitolo complesso delle dimensioni e le implicazioni degli spostamenti globali in cui le donne sono immerse, il contesto italiano rappresenta una situazione particolarmente interessante. A partire dagli anni 90 abbiamo assistito a un fortissimo sviluppo dell'immigrazione femminile, soprattutto collegata ai movimenti della crescente domanda del lavoro domestico. E in senso generale il processo di femminilizzazione del lavoro si riguarda, come dice una celebre frase di Ulrich Beck, non significa oggi l'integrazione delle donne nel lavoro regolarizzato degli uomini, ma l'integrazione degli uomini nel lavoro non regolamentato delle donne. sono rotto, io mi sono rotto. Non ho più voglia di abitare lo stivaletto. Non ha più senso rimanere, grazie di tutto. Aspetto ancora fine mese, poi mi rimetto. Tanto il mio lavoro è inutile, diciamo futile. Essenzialmente rimovibile, sostituibile. Regolarmente ricattabile. Il mio lavoro è bello come un calcio all'inguine dato da un toro. Il mio lavoro è roba piccola, fatta di plastica, che piano piano mi modifica, mi ruba l'anima. Dice il lavoro rende nobile, non so portarsi. Sicuramente lei è libera di suicidarsi. E io mi sono rotto, io mi sono rotto. Non ho più voglia di abitare lo stivaletto. Non ha più senso rimanere, grazie di tutto. Aspetto ancora fine mese, poi mi dimetto. Precario il mondo, fossi dire la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. Precario il mondo, precario il mondo, con il terreno nel ghiaccio si sta sciogliendo, con il terreno nell'aria si sta esaurendo, e l'indeterminato c'è solo. Sembra ancora più precario questo stivale che sta affondando dentro a un muro di porcheria, e quelli che l'hanno capito vanno via. E invece tu non l'hai capito, tu non l'hai capito, e stringi i denti dietro un tavolo dentro un ufficio, senza nemmeno avere il tempo di guardare fuori, così non vedi che già cambiano tutti i colori. E intorno a te la gente si agita, si muove sempre. Qualcuno grida una protesta che nessuno sente. Non c'è un futuro da difendere, solo il presente. E anche di quello disalvabile c'è poco niente. Amore mio, non ci resisto, io non ci resisto. Vorrei convincerti a raggiungere, ma non insisto. Tu riesci ancora a non vedere solo il lato brutto. Io invece ho smesso, devo andare, grazie di tutto. Dal comunicato del Comitato per i diritti delle prostitute, Concita De Gregori e le donne del PD hanno lanciato un appello a tutte le donne italiane che si sentono offese a dire basta. Molto suggestivo, anch'io mi sento offesa come prostituta onesta, donna e cittadina. Sarebbe bello che tutte le donne di ogni classe si mobilitassero e riuscissero a costringere un politico dipinto come satiro alla ritirata. Si mostrerebbe al mondo che in questo paese le donne nonostante tutto contano qualcosa. Ma il loro tentativo è stato subito fagocitato dai maschi di partito, i quali l'hanno trasformato in una vastissima e generale raccolta di firme. Forse temevano che le donne da sole potevano riuscirci? Perché diciamocelo, sarebbe stato un successo tutto al femminile, di cui poi si sarebbe dovuto tenere conto nei futuri equilibri all'interno del partito. Ma mi chiedo, sarebbe stata una vera vittoria sfrattare un governo perché il premier è scivolato sulla prostituzione, quando invece si sarebbero ragioni politiche, sociali e di democrazia, e ben altre più gravi per mandare a casa casa alcuni di costoro. Il lavoro sessuale per alcune migliaia di persone che scelgono liberamente è un lavoro, è inutile negarlo, confutarlo, condannare e svilire le persone che lo praticano. Serve essere onesti, ammetterlo difendendone chiaramente i contorni, diritti e doveri, per non lasciarlo nell'illegalità e nelle mani della criminalità. Giovane, brillante, ma più di ogni altra cosa dolce e consenziente. Apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita. Donna giovine e libata, cercasi. Donna usata, già rodata, cercasi. Donna sicula o padana, oriunda clandestina. Vediamo come balli a suon di samba o cia cia cia. A colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica. Cercasi badante, un ottantenne miliardario affascinante. Un'opportunità di vita più agiata. Donna imprenditente e ladra, cercasi. Donna santa incensurata, cercasi. Deceduta il giorno prima, basta che sia buona. Come paceresti se dovessi fare cinema? Scena prima, ciak motore, azione poi sei gira. O forse ti interessa la politica? Ministro degli affari a luci rosse o di cosmetica. Al giorno d'oggi tra i due sessi non v'è differenza. Il bel paese premia chi più merita. Invece parliamo di un argomento che non riguarda l'Italia, parliamo del Messico, di Ciudad Juárez. Da pochi giorni abbiamo appreso la notizia della morte di un'attivista, Susana Chavez, una delle tantissime morte tra le attiviste, ma anche le donne di Ciudad Juárez, che dal 1993 vengono uccise senza nessun motivo e trovate violentate nel confine tra il Messico e gli Stati Uniti, appunto Ciudad Juárez. Queste donne lavorano in maquiladoras. Cosa sono le maquiladoras? Sono delle fabbriche che in cui vengono assemblati dei prodotti che poi verranno venduti all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. E il proliferarsi, il prodursi, diciamo, di queste fabbriche si è attuato appunto dal 1993, quando un accordo di libero scambio, la NAFTA, ha appunto visto la creazione di queste fabbriche. Le donne che lavorano nelle maquiladoras sono delle donne che vengono a tutto il Messico per lavorare lì, credendo di trovare fortuna. Invece trovano sfruttamento, perché hanno degli orari improbabili, una paga sotto, insomma, scandalosa. E soprattutto il femminicidio è il problema più grave di questa città. Dedichiamo una canzone a tutte le donne che lottano, ma soprattutto alle donne di Ciudad Juárez. Una más en Juárez. Yeah. adesso abbiamo un ospite telefonico, ci senti? Sì, sì, ci sono. Allora, il batterista di un gruppo romano, I Nervi, e ci vuoi raccontare un po' della vostra esperienza musicale e soprattutto della canzone che faremo sentire quest'oggi, che è Lavoro a mano armata, appunto perché si collega al tema centrale di Mamatruna di oggi. Ok, ok. Beh, innanzitutto saluto tutta Radio Onda Rossa e la redazione di Mamatruna che ci ospita quest'oggi. Ieri sera, insomma, abbiamo un po' parlato anche della trasmissione e abbiamo accolto positivamente anche il vostro progetto. I Nervi sono nati da quella che erano le vecchie carote sbriciolate, quindi semplicemente, insomma, è un gruppo un po' atipico perché è un gruppo che è nato con un disco, quindi è uscito il disco ed è nato anche il gruppo contestualmente. E c'è questo disco in giro che stiamo vendendo ai concerti, che si chiama Come salvare i dinosauri, da cui abbiamo poi preso il brano che andremo a sentire tra poco, appunto, che Lavoro a mano armata. Il disco è composto da 11 tracce, insomma c'è parecchio rock elettronico e un po' di reggae elettronico, e il brano che andremo a sentire, insomma, ripesca un po' dalla tradizione del reggae elettronico, anche se in realtà era, diciamo, l'abbiamo utilizzato soltanto come sottofondo musicale, appunto, al tema delle morti bianche, che è quello che, insomma, si sta trattando anche oggi in trasmissione. Tutto qua, l'ho detto proprio molto molto brevemente, ecco, per non rubare troppo spazio alla radio. Va bene, grazie. Adesso ci andiamo ad ascoltare la canzone dei Nervi, Lavoro a mano armata. Va bene, ok, un saluto a tutte. Un saluto, ciao. Ciao, ciao. Osservare l'acciaio e il sudore, freddare le narici impolverate per poterlo perlomeno sopportare. Nei camion del mattino, come bestia ad elemosinare la dignità che serve per provare a non sparire. Ti ricordi delle fabbriche dopo gli incendi? Sarcofagi d'amianto perduti nell'interland della tua città. È un odore di ferro inacidito e zuccherato. È il sapore delle ore di straordinario. Mano armata. Il bianco dei nostri lenzuoli, un timbro sull'inevitabile, assolti ormai i nostri doveri, colpevoli voi delle vite in frantumi. E la cicogna ha portato un nuovo cantiere alla periferia. Impalcature su cui camminare, impalcature su cui bestemmiare. È come un esercito che senza casco né permesso di soggiorno non ha ancora imparato a volare. Ancora imparato a volare. Archiviare per ricordare. Archiviare per

ti ha condotto a odiare la 128. Ma alla fine settimana il riposo ci fa bene. Noi andremo senza pensieri dagli amici a Moncalieri. Un bicchiere di vino buono ti ridà tutto il calore. Trovi la tua donna, fai l'amore. Sei già pronto per partire. Spegni tutte le luci di casa. Metti il tuo abito migliore pulito. Lascia il gatto la carne per 3 giorni. E insieme a una Torino abbandonata. Trovi la tua macchina bruciata. E ora, chi non legge mai l'oroscopo rispetto al lavoro, iniziamo con Ariete, lavoro di testa. Toro, lavoro con le corna. Gemelli, doppio lavoro. Cancro, non lo diciamo, zit, zit. Leone, oh, abbassa la cresta. Vergine, non sarebbe l'ora? Bilancia, pesi un po' troppo. Scorpione, pungi più che puoi. Sagittario, sesso sul lavoro. Capricorno, non pervenuto. Acquario, scontato dire con l'acqua alla gola. Pesci, prima impara ad annuotare. Son drogato di lavoro, son drogato di lavoro, e così non vivo più, mi è rimasta la TV. Son drogato di lavoro.

mi cambio e me ne vado lì dove sono destinato di andare a lavorare, all'alto forno, cara madre, come scovazzino, mansione di scovazzino, scopare il carbone all'alto forno come manovale semplice, attraverso il piazzale di cemento armato, la panchina, il perastro, l'albero di pere selvatiche, me ne vado al centro della fabbrica, all'alto forno, cara madre, ci incontro Fausto, Fausto è il mio capoforno, Fausto è quello che mi imparerà il mestiere, Fausto la prima cosa che mi dice è che la fabbrica c'è un centro, il centro della fabbrica è l'alto forno, tutto quanto lo stabilimento, l'azienda della fabbrica, lavora finché funzioni bene l'alto forno, quando l'alto forno cammina, funziona bene, produce pure la corrente elettrica, l'energia elettrica che manda avanti tutta quanta la fabbrica, il centro della fabbrica è l'alto forno, noi stiamo al centro della fabbrica, questa è la prima cosa che mi dice Fausto, ma la seconda cosa che mi dice subito subito è che sicuramente se sono sbagliati a prendere a lavoro uno come me, dice quelli come me li mandano via. Li cacciano via, li licenziano, quelli che non hanno figli, quelli che non hanno moglie, quelli che non sono sposati, sono i primi che li cacciano via. Mi fa, dice Fausto, il mio capoforno, dice, mo stiamo del mese di marzo, ma da ottobre ne hanno licenziati 300 come te, e mo nei prossimi 3, 4, 5 anni al massimo, secondo i piani dell'azienda, ne mandano a casa 3.000, figuriamoci, quelli come te, senza figli, senza moglie, senza famiglia, sono i primi che l'hanno già cacciati via, domani sicuramente ti arriverà il licenziamento o la revoca dell'assunzione, se sono sbagliati a prendere a lavorare, vedrai che ormai gli unici che rimangono a lavorare alla fabbrica sono quelli che ci hanno avuto la disgrazia, quelli che hanno perso una mano, un dito, una orecchia, un occhio, quelli che sono diventati ciechi, sordi. Difatti, egli, cara madre, Fausto, il mio capoforno, è mancante d'una gamba. Ma no che è zoppo, proprio tutta quanta la gamba sana, sana manca, dalla chiappa in giù niente gamba, vuoto, nisba. Fa, dice lui, Fausto, dice io, con sta disgrazia, sta maniera, a me non mi caccia via più nessuno dalla fabbrica. Manco Gesù Cristo e la Madonna, mi licenziano più qui dalla fabbrica. Che poi dice Fausto, mi fa, dice io da generazioni ci lavoro in fabbrica. Ci lavoro io, ma ci lavorava pure mio padre e perfino mio nonno. Che, cara madre, il padre e il nonno di Fausto si chiamavano Fausto pure loro. E dite bene voi, cara madre, quando dite che il morto porta il vivo, nel senso che quando uno muore ed entra in una casa, poi nel ritorno di poco tempo subito ci nasce qualcun altro per riportare a pari i conti tra la vita e la morte. Il morto porta il vivo, ma il vivo deve portare avanti la vita del morto, dite voi, cara madre, e deve portarne anche il nome. Per questo, cara madre, che Fausto si chiama Fausto come suo padre e come suo nonno, cara madre, per portare avanti la vita del morto. Questo era solo un pezzetto di Fabbrica di Celestini. Mamma Trona è finita, noi vi salutiamo. Un bacio a tutti e tutte. Sempre giovedì, da mezzogiorno a l'una, Mamma Trona su Radio Onda Rossa. Parleremo di periferie e un caro saluto alla Mamma Trona mancante, ma soprattutto vi la salutiamo con Fabbrica dell'Istatuto, dedicata all'attore di Bollywood più famoso a Roma. Parto, rallenta la catena, che voglio restar vivo. La prossima puntata anche con una guest star direttamente da una periferia romana. E cento all'ora, e cento pezzi devo fare, non ho neanche il tempo per pisciare. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, più, più, più. Come vorrei che fosse ieri, vorrei un fine settimana, ma oggi è lunedì, si ricomincia la catena. Tiro avanti per una sporca busta paga, ma chi c'è stato sa che la fabbrica è una galera. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, più, più, più. Voglio andare in fabbrica, non ci vado più. Sentite che vi canto, la vita è solo una, meglio un posto al sole che un turno alla catena. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. Se 8 ore vi sembrano poche, provate voi a lavorare.